Dialogo 47. Raccontò Abu Huraira: un giorno l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, recatosi da Bilal, vide che davanti a lui c'era un cestino con dei datteri. Disse allora l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria: «O Bilal, cos'è questo?» Rispose Bilal: «È qualcosa che ho messo da parte per domani». Allora l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la ben gloria, disse: «Non hai paura di poter vedere domani, nel giorno della resurrezione, le fiamme dell'inferno a causa di questi datteri? O Bilal, distribuisci per amore di Allah e non temere la povertà da colui che è padrone del trono dell'onnipotenza».